Capitolo 5. Il pianto in fondo al corridoio. Nei giorni seguenti Mary continuò a svegliarsi la mattina per il rumore che faceva Marta pulendo il caminetto e accendendo il fuoco. Continuò a bere il suo tè nella stanza dei giochi, che di giochi non aveva neanche l'ombra. Continuò a guardar fuori dalla finestra dopo il tè, verso la brughiera, che si stendeva sconfinata a perdita d'occhio. Continuò a pensare che se non usciva in giardino doveva restare in quelle stanze dove non aveva proprio niente da fare. E così continuò a uscire tutte le mattine. Non sapeva che era la cosa migliore che potesse fare per la sua salute. Quando camminava per i viali di Buonpasso o correva, mandava tanto ossigeno nel suo sangue e quando lottava contro il vento che la investiva rafforzava tutti i suoi muscoli. Correva solo per scaldarsi e odiava le raffiche di vento che spesso la facevano ondeggiare di qua o di là o la spingevano aggredendola alle spalle quasi fossero mani di invisibili giganti. Ma quell'aria pura che le arrivava dopo aver attraversato la brughiera e raccolto il profumo e l'ossigeno delle piante era una vera medicina per i suoi polmoni e per il suo esile corpicino. Le sue guance cominciavano adesso a colorirsi di rosa e gli occhi ad acquistare una luminosità prima sconosciuta. Dopo qualche settimana di questa vita all'aperto, una mattina accadde un fatto insolito. Si svegliò con una grande fame. Si sedette a tavola, senza quell'atteggiamento di rifiuto per il porridge, e preso il cucchiaio non smise di mangiare finché la scodella non fu vuota. «Andiamo abbastanza bene oggi, mi pare», osservò Marta. «Oggi era buono», rispose Mary e si meravigliò della sua osservazione. È buona l'aria della brughiera che sta facendo mettere giudizio al tuo stomaco. Con tutte queste buone cose qui è un peccato non goderne. Se continuerai ad andare fuori a giocare tutti i giorni ingrasserai e perderai un po' di quel giallo che hai sul viso. Veramente io non gioco, replicò Mary. Non ho niente con cui giocare. Niente con cui giocare? Esclamò Marta. I miei fratellini pensi che abbiano giocattoli? Ma loro si divertono con i sassolini, prendono i rami degli alberi che sono caduti per terra e ne fanno dei bastoni, raccolgono le bacche, gridano, saltano, si guardano intorno, guardano le mille cose che ci sono intorno. Quello di guardarsi intorno, per la verità, lo faceva anche Mary, non aveva altro da fare. Ormai conosceva bene tutti i vialetti che portavano ai vari giardini. Qualche volta era andata anche alla ricerca di Ben. Ma l'aveva sempre trovato troppo occupato nel suo lavoro, così di cattivo umore, che non aveva osato avvicinarsi. Più di una volta, vedendola apparire, si era caricato la sua zappa sulla spalla, le aveva voltato la schiena e se n'era andato senza neanche un cenno di saluto. Mary aveva un posto preferito per le sue passeggiate, sentiero attorno al muro di cinta che racchiudeva tutti gli orti e i giardini. Da un lato e dall'altro c'erano aiuole senza però fiori. Il muro era coperto da una fitta cortina di edera rampicante. C'era un punto in cui i rami erano più folti e le foglie più grandi e più scure. Mentre in tutti gli altri posti l'edera era stata regolarmente potata, in quel punto speciale non doveva esserci passato nessuno con le forbici da un bel pezzo. Mary aveva fatto queste osservazioni pochi giorni dopo il suo colloquio con Ben e avrebbe voluto parlarne con lui, ma non ci era riuscita. Si fermò un istante e prese in mano un lungo ramo d'edera ed ecco che, alzando gli occhi, scoprì una macchiolina rossa fra le foglie, in cima al muro. «Oh, sei tu, sei tu!» esclamò con gioia. E non le parve strano parlare al pettirosso come se fosse sicura di essere capita e di ricevere una risposta. E la risposta venne, infatti. Egli cinguettò e gorgheggiò e saltellò lungo il muro come se volesse raccontarle un sacco di cose. Mary pensò di capire e tradusse in parole il messaggio. «Buongiorno! Hai visto che bel sole oggi? E il vento? Come bello! Godiamocela insieme questa bella giornata! Vieni, vieni con me, corriamo!» Il pettirosso svolazzava su e giù lungo il muro e Mary raccolse il suo invito. Si mise a correre su e giù, anche lei, ridendo. «Come sei simpatico! Come mi piaci!» gridava correndo e saltellando per il sentiero. Tentò anche di imitare il cinguettio del petirosso, ma non ci riuscì, perché non sapeva proprio come fare. Però la bestiola apprezzò il suo sforzo e le rispose ogni volta che lei emetteva un suono. A un certo punto l'uccello spiccò un volo verso l'alto e andò a posarsi sul ramo di un albero al di là del muro, e di là inviò a Mary una melodia speciale fatta di note acute e di gorgheggi. Mary ripensò al suo primo incontro con il pettirosso. Le era apparso mentre lei stava nel frutteto in fondo, era sul ramo di un albero che sporgeva sopra il muro di cinta. Adesso lei era dall'altra parte di quel muro, ma al di sopra di esso sporgevano le cime degli stessi alberi. Ma sì, pensò, questo muro gira intorno a tutti i giardini. Certamente questo pezzo corrisponde al giardino, chiuso dal muro senza porta, che ho visto quando ero nel frutteto. Sì, deve essere qui il giardino segreto. Gli alberi sono quelli e il pettirosso, ben dice che abita là dentro. Dunque, oh, come vorrei poterci entrare. Ritornò indietro per il vialetto e andò alla prima porta verde dalla quale si entrava nel primo giardino, poi nel primo orto, poi nel frutteto. Non aveva perso di vista l'albero con il pettirosso. L'uccellino aveva smesso di cantare, ma era rimasto sul suo ramo e si lisciava le penne con il becco. È quello il giardino, è quello, ne sono sicura. Si avvicinò al muro di cinta del frutteto e cercò di scoprire l'entrata, ma non c'era nessun passaggio, nessuna porta. Riattraversò il frutteto, l'orto, il giardino e ritornò sul sentiero esterno, vicino al muro coperto di edera. Lo esaminò attentamente, camminando piano piano, ma non riuscì a trovare nessuna porta. Che strano, rifletté ad alta voce. Ben ha detto che non c'è alcuna porta e difatti non c'è. Ma 10 anni fa ci doveva pure essere una porta. Altrimenti come faceva Mr. Craven a seppellire la chiave? Ah, avrebbe dato non sapeva che cosa per riuscire a scoprire questo segreto. Era la prima volta che le interessava qualcosa. In India non le era mai accaduto. La sera mangiò con grande appetito e fu molto contenta di vedere che Marta era disposta a chiacchierare con lei finita la cena. Si sedette davanti al caminetto e incoraggiò la ragazza a farle compagnia. Perché Mr. Craven odia quel giardino? Le chiese. Stai pensando ancora a quel giardino? È successo lo stesso anche a me la prima volta che ne ho sentito parlare. Non riuscivo a togliermelo dalla testa. Perché lo odia? Insiste Mary. Senti come fischia il vento? Se si fosse nella brughiera adesso non si riuscirebbe a restare in piedi. Mary ascoltò un attimo. Si sentiva un suono cupo, cavernoso. Una specie di muggito, come se un invisibile mostro girasse intorno alla casa e cercasse di stritolare le mura, sbattesse infuriato contro le finestre. Ma Mary sapeva che quelle mura erano solide e le finestre erano ben chiuse. Guardò il fuoco che scoppiettava nel camino e si sentì al sicuro, protetta. Ma insomma, perché lo odia? Chiese per la terza volta. Marta capì che non era più possibile evitare l'argomento. Mrs. Medlock non vuole che se ne parli, cominciò. Oh, è una delle tante cose di cui non si deve parlare. Mr. Craven non vuole che i suoi problemi siano argomento di conversazione per la servitù. Però, senti, se vuoi saperlo, io ti dico quello che so. Quello era il giardino di sua moglie. Loro due si volevano molto bene. Quel giardino era per loro come il paradiso. Ci passavano le giornate intere curando le piante, facendo crescere i fiori, leggendo, conversando, giocando. Nessuno poteva andarci, solo loro. Sai, lei era piccolina, fragile, sembrava una bambina. Pensa che si era fatta un'altalena intrecciando i rami di un rosaio ai rami di un grosso albero. Le piaceva sedersi lì a leggere, a ricamare. Ma un brutto giorno un ramo dell'albero improvvisamente cedette, lei cadde. E si fece così male che il giorno dopo morì. I dottori pensavano che lui perdesse la ragione e morisse dal dolore. Non è morto, ma non ha mai più voluto vedere quel giardino. Lo odia. Nessuno ha mai più potuto andarci da allora. Nessuno ne deve parlare. Mary rimase senza parlare a guardare le fiamme nel caminetto. Ascoltava il vento adesso e le sembrava che ci fosse come il suono di un pianto in quell'ululare sordo. In quel momento qualcosa di molto buono e bello stava accadendo in lei. Veramente, da quando era arrivata a Misselthwaite, le erano successe altre cose buone. L'amicizia con il Pettirosso, quel sentire che lui l'ascoltava, la cercava, voleva stare con lei. Il piacere di sentire il sangue scorrere più veloce nelle sue vene dopo una corsa nel vento, essersi seduta a tavola con appetito e aver provato gioia nel mangiare per la prima volta in vita sua. Ma ora sentiva dolore per una cosa triste, partecipava al dolore di altri esseri umani e questo significava che il suo egoismo non era più così impenetrabile e che lei stava cambiando, non era più sempre no e basta. Ascoltò ancora il vento e l'impressione che aveva avuto prima risultò ancora più netta. Ma qui c'è qualcuno che piange, esclamò. Marta arrossì, confusa. No, no, è il vento. Geme come se ci fosse qualcuno sperso nella brughiera, ma è il vento. Ma no, Marta, ascolta bene. È dentro casa, viene da uno dei corridoi. C'è qualcuno che piange qui dentro casa. In quel preciso istante una porta si aprì al pian terreno, una forte folata di vento soffiò lungo il corridoio e la porta della stanza dove stavano Mary e Marta si aprì, sbattendo con forza contro il muro. Le due balzarono in piedi, la fiamma della lampada si spense e nell'oscurità del lungo corridoio si udì ancora e più distintamente echeggiare il pianto di un essere umano. Ascolta! Ascolta bene, gridò Mary. Questo è qualcuno che piange. E non è il pianto di una persona grande, deve essere un bambino. Marta corse verso la porta, ma prima che riuscisse a chiuderla si udì lo sbattere di un'altra porta in uno dei corridoi e il rumore del pianto cessò. Per me era il vento, affermò Marta girando la chiave nella serratura. E se non era il vento sarà stata Betty, la sguattera, che ha avuto mal di denti tutto il giorno. Riaccese la lampada, inginocchiata davanti al fuoco. Voleva sembrare naturale, ma c'era qualcosa di così strano e imbarazzato nel suo modo di parlare che Mary la fissò duramente. Non sta dicendo la verità, pensò fra sé. Capitolo 6. Il giorno dopo pioveva a dirotto. L'acqua veniva giù senza smettere un attimo e quando Mary si avvicinò alla finestra non poté nemmeno vedere la brughiera. Nascosta com'era dalla foschia e dalle nuvole plumbee e basse, non era proprio possibile uscire. Che cosa fanno i tuoi fratelli quando piove così e devono restare in casa? Chiese a Marta. Beh, per prima cosa stanno attenti a non pestarsi i piedi, rispose allegramente Marta. Pensa, 11 bambini tutti in una stanza. La mamma è molto buona e paziente, però non ce la fa neanche lei. I più grandini vanno a giocare nella stalla. Dicon va fuori lo stesso, dice che nei giorni di pioggia riesce a vedere cose che non vede quando c'è il sole. Una volta ha trovato un volpacchiotto mezzo affogato nella sua tana invasa dall'acqua. Se l'è messo dentro la camicia per tenerlo caldo e se l'è portato a casa. È ancora lì. Un'altra volta ha trovato un corvo che era caduto dal nido e si era spezzato una zampina. Sarebbe morto affogato perché non sarebbe riuscito a muoversi da terra con le ali tutte piene di fango. L'ha preso con sé, l'ha chiamato Fuli. Un pezzetto di fuliggine, capisci? Perché è così nero? Fuli sta sempre con Deacon, vola dietro di lui, va sulla sua spalla. Parlare con Marta era adesso un piacere per Mary. Non si ricordava neanche più la loro prima conversazione così burrascosa. Marta non le raccontava fiabe come faceva la Yah, ma le avventure dei fratellini e la vita nella casetta della brughiera avevano per lei un fascino speciale. Naturalmente i due personaggi che la tiravano di più erano la mamma e Deacon. Se avessi un cucciolo di volpe o un corvo potrei giocare con loro, pensò Mary ad alta voce, ma non ho niente di niente. Marta la guardò perplessa. Ma sai fare la maglia? No. Sai cucire? No. Sai leggere? Sì. E allora potresti leggere. Ma se non ho libri? I miei sono rimasti in India. Oh, che peccato. Se Mrs. Medlock ti lasciasse andare in biblioteca. Là ci sono centinaia di libri. A Mary venne voglia di chiedere dove era la biblioteca, ma non lo fece, perché un secondo pensiero si era sovrapposto al primo. Andrò a cercarmela da sola, pensò. Nei corridoi non c'era mai nessuno. Quando non c'era Mr. Craven, la servitù stava sempre al pian terreno, dove c'era un'enorme cucina piena di pentole di rame e di peltro e una grande stanza da pranzo per il personale di servizio, dove venivano serviti 4 o 5 abbondanti pasti al giorno. E dove si giocava e si schiamazzava forte appena Mrs. Medlock girava l'occhio. vestiti di Mary venivano portati al primo piano e Martha restava a servire le pietanze, ma poi nessun altro si occupava di lei. Ora sapeva vestirsi da sola. Martha le aveva fatto capire che soltanto chi non può farlo deve essere aiutato. «Ma sei matta?» le aveva detto una volta che Mary le aveva porto le mani perché le infilasse i guanti. «Fallo da te!» Mary le aveva tenuto il muso per un po', ma poi ci aveva ripensato e aveva cominciato ad arrangiarsi da sola e a provare piacere nell'essere indipendente. Martha finì di raccogliere la cenere e di accendere il fuoco, poi tornò giù in cucina. Mary stette ancora una decina di minuti a guardare dalla finestra e a rimuginare l'idea della biblioteca. Non che le importasse molto di andare a prendere dei libri. Non era una lettrice appassionata, ma le piaceva l'idea di andare a cercare quella stanza. Forse era una di quelle chuse? C'erano veramente 100 stanze nel castello? Sarebbe stato bello andare in giro, contare le porte, provare a vedere se le serrature si aprivano. Sarebbe stato un bel modo per trascorrere la mattina. Aprì la porta della camera e si avviò per il corridoio, alla scoperta della casa. Il corridoio era lungo e si diramava in tanti altri corridoi che portavano a rampe di scale più o meno lunghe, che immettevano in altri corridoi. C'erano porte, porte e porte, quadri alle pareti. Molti rappresentavano paesaggi, ma c'erano anche ritratti di uomini e donne con strani vestiti di seta e di velluto. A un certo punto si ritrovò in una galleria interamente coperta di ritratti. Non avrebbe mai pensato che ce ne potessero essere tanti in una casa sola. Si mise a guardarli uno per uno e le sembrò che anche loro la guardassero, chiedendosi cosa mai ci facesse lì in casa loro quella bimbetta venuta dall'India. C'era anche qualche ritratto di bambino, ragazzine con abiti in seta pesanti, lunghi fino ai piedi, con le gonne larghe e rigide, e bambini con maniche a sbuffo, colletti di pizzo e capelli lunghi, altri con grandi gorgiere intorno al collo. Mary li osservava ad uno e avrebbe voluto sapere tante cose di loro, come si chiamavano, perché erano vestiti in quella strana maniera, come mai c'era lì un loro ritratto, dove erano adesso. Fra le bambine una la interessò in particolare, perché le parve che le somigliasse. Era una biondina dal volto serio e triste che stava impettita nel suo lungo vestito di broccato verde e teneva un pappagallo appoggiato sull'indice della mano destra. Gli occhi avevano uno strano taglio, un po' orientale. «Dove sei adesso?» le chiese Mary e aggiunse «Come mi piacerebbe che tu fossi qui!» Era una mattinata veramente ricca di emozioni e non erano finite. Arrivata in fondo al corridoio, Mary salì per una rampa di scale più lunga delle altre e si ritrovò al secondo piano. Il castello sembrava deserto. Mary percorse tanti corridoi, alcuni dei quali più larghi, erano vere e proprie gallerie d'arte. Tante scale più o meno lunghe, tanti anditi più o meno illuminati, e non incontrò anima viva, non sentì il minimo rumore. Ma se tante stanze erano state costruite, certo un tempo lì dovevano viverci tante persone. Sembrava impossibile adesso che ci fossero state animazione e vita là dentro. Provò a girare la maniglia di una porta, ma non riuscì ad aprirla. Provò le altre vicine. Erano tutte chiuse, sprangate. Mrs. Medlock l'aveva detto, però Mary non si dette per vinta. «Voglio provarle tutte», promise a se stessa. Ed ecco che una si aprì. Per un momento Mary rimase un po' spaventata sulla soglia, incredula, non osando spingere la porta per entrare, ma poi si fece coraggio e fece girare sui cardini la pesante porta di quercia. Si trovò in una enorme camera da letto. Le pareti erano tutte coperte da meravigliosi arazzi ricamati con molte figure, in oro e argento. I mobili erano tutti intagliati, del tipo di quelli che Mary ricordava di aver visto in India. Una finestra alta e larga, con la caratteristica vetrata a riquadri, si affacciava sulla brughiera. E sopra la mensola del caminetto c'era un altro ritratto della ragazzina del pappagallo, questa volta con in mano un mazzo di rose. «Forse questa era la sua stanza», pensò Mary. Uscì di nuovo nel corridoio e riuscì ad aprire ancora molte porte. Entrò in tante, tante stanze, tutte diverse. tutte piene di cose strane, mobili, tappeti, quadri, statue, vasi di porcellana, argenterie. Una in particolare le piacque. Doveva essere un salottino da signora, perché tutti i toni della tappezzeria erano delicati e i mobili non erano così pesanti e imponenti come nelle altre stanze. C'erano molti cuscini di velluto e di seta sui divani e sul pavimento c'era un morbido tappeto azzurro. Mary si avvicinò ad una piccola scrivania e aprì un cassetto. Ci trovò dentro tanti elefantini di avorio. Saranno stati un centinaio, più grandi, più piccoli, con sul dorso un baldacchino o il loro mahout, parola indiana che indicava il guidatore di elefanti, o niente, ma tutti intagliati come si usava in India. A me riparve di aver ritrovato degli amici. Li tirò fuori dal cassetto, li allineò sul tappeto, si divertì per un bel po' a giocare con loro. Decise poi di rimetterli a posto e continuare il suo giro di ispezione. Ma quando stava per uscire dalla stanza, udì uno strano rumore provenire dal divano, vicino al caminetto. Volse la testa da quella parte e scoprì che nel velluto di uno dei cuscini c'era un buco dal quale faceva capolino una testina pelata, con due occhietti neri spaventati che andavano di qua e di là. Si avvicinò pian piano per vedere meglio, e quegli occhi appartenevano a un topino grigio che si era fatto il nido dentro il cuscino. Mary vide che accanto a lui, stretti l'uno sull'altro in mezzo ai fiocchi di lana dell'imbottitura, c'erano cinque piccoli appena nati che squittivano in coro. «Oh, come sono bellini!» esclamò. «Se non avessi paura di spaventarli ancora di più, li porterai con me.» Uscì dalla porta in punta di piedi, ritornò nel corridoio e riprese ad aprire tutte le porte che cedevano quando lei girava la maniglia. Alla fine si sentì stanca e decise di tornare in camera sua. Due o tre volte si perse per i corridoi e dovette fare e rifare scale e scalette finché trovò la via giusta per scendere al primo piano. Ma una volta arrivata nel corridoio non sapeva più da che parte girarsi per trovare la porta delle sue stanze. Si fermò in una specie di andito con arazzi sulle pareti. «Prima sono passata di qui», si disse, «ma non mi ricordo se sono andata a destra o a sinistra». Ah, mi ricordo questa tappezzeria, ma non ho la minima idea di dove sia la mia porta. Tutto intorno c'era un gran silenzio. Mary stette un po' ferma cercando di orizzontarsi quando udì un rumore strano provenire da una delle porte chiuse. Non era il pianto disperato della notte precedente, era piuttosto un singhiozzare monotono, come quando i bambini fanno i capricci, quello che le giungeva smorzato dalle pareti. Il cuore cominciò a batterle più forte. «È ben più vicino di ieri sera», mormorò. «Ma è il pianto di un bambino questo, sono sicura!» Si appoggiò con una mano alla parete e fece un salto all'indietro. Sotto la pressione della sua mano la tappezzeria si era mossa. Copriva una porta che si aprì e lasciò intravedere un altro corridoio. Mrs. Medlock lo stava percorrendo e veniva verso Mary, stringendo in mano un mazzo di chiavi e agitando il pugno. Il suo viso era terribilmente arrabbiato. «Cosa fai tu qui?» le urlò afferrandola per un braccio e spingendola avanti a sé. «Non ti ricordi di quello che ti avevo detto?» «Mi sono persa per i corridoi e non sapevo da che parte andare per tornare in camera mia. E ho sentito qualcuno piangere.» Sentiva di odiare Mrs. Medlock in quel momento, ma il suo odio crebbe ancora quando la governante le disse: «Non è vero, tu non hai sentito niente. Vieni subito indietro con me in camera tua se non vuoi che ti prenda schiaffi.» Le dette uno strattone più forte e a spintoni le fece percorrere due o tre corridoi finché, giunte alla porta della stanza di Mary, ce la scaraventò dentro urlando: «E adesso prova a disubbidire ancora. Se ti trovo un'altra volta dove non devi andare, ti chiudo per sempre a chiave qui dentro. Dirò al signore di prenderti una governante. Tu devi essere sorvegliata 24 ore su 24 e io ho altro da fare.» Se ne andò, sbattendo la porta. E Mary si sedette sul tappeto, pallida di rabbia. Non piangeva, ma stringeva i pugni e si ripeteva. E invece c'era qualcuno che piangeva. C'era, ne sono sicura, l'ho sentito bene. L'aveva già sentito due volte ormai. Sarebbe andata a fondo della cosa. Quella mattina era stata molto bella. Non avrebbe permesso agli urli di Mrs. Medlock di sciuparla.